Steve ha mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. So 1-0 up. E ci sono novità anche su Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla nostra finestra settimanale aperta sul panorama della cultura internazionale. Dunque ci risiamo, rieccoci come ogni anno alla leggendaria notte degli Oscar, la cerimonia più ambita dagli uomini di cinema, registi, attrici, attori di tutto il mondo. Ma l'Oscar segna davvero il trionfo dell'eccellenza e della qualità? L'espressione più alta della decima musa? È un premio credibile o risponde a logiche di marketing che prescindono dall'effettivo valore artistico dell'opera e dalla bravura degli autori e degli interpreti? Molti se lo chiedono e qualcuno addirittura propone una riforma radicale che restituisca all'Academy di Hollywood il prestigio perduto. Di questo ed altro parleremo nella nostra puntata della finestra sul cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il menù di oggi. Los Angeles, Oscar sul viale del tramonto. Secondo il critico inglese Ryan Gilby, il premio punisce la qualità e va urgentemente riformato. Polonia, ritrovati a Malbork 2000 corpi di soldati tedeschi uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale. Uno scrittore propone di dare un nome a ciascuno di essi. Cina. Disgelo culturale tra Pechino e Taiwan. A settembre un pezzo del museo di Pechino si trasferirà. Spagna. Opere fatte di sangue, piume e segatura. Come restaurare l'arte contemporanea? I restauratori fanno sempre più fatica. Stati Uniti. Diplomazia e amore. La teoria delle relazioni internazionali applicata al rapporto di coppia. Israele. Il premio Freedom of the Individual in Society assegnato allo scrittore Murakami, primo giapponese a ricevere il riconoscimento. Arte d'avanguardia, arte di transavanguardia, modernissima, ultramoderna, contemporanea, contemporaneissima, ma già bisognosa di restauri. È il tema di un articolo di Isabel Lafont sul País, il quotidiano spagnolo, è intitolata Olio, sangre, plumas y caramelo, e racconta di come i restauratori e i curatori delle mostre di arte contemporanee abbiano discusso di questi problemi di deterioramento e di conservazione delle opere degli artisti di oggi in un seminario all'Arco, la fiera internazionale di arte contemporanea che si è conclusa in questi giorni a Madrid. E ci sono degli esempi appunto di materiali usati da questi artisti, come per esempio carta di stracci inzuppata in sangue animale, piume di uccelli, cortecce di alberi, caramelle, cera, segatura e altri materiali di questo tipo. E come dice Jorge García Gómez Tejedor, che è il capo del restauri al Museo Reina Sofía di Madrid, museo di arte contemporanea spagnolo, dice: il restauro dell'arte classica è un processo molto definito ormai da secoli praticamente, mentre nel contemporaneo non c'è questa previsione, perché ogni artista è un mondo suo e ogni opera è un mondo che spesso impiega dei materiali difficili da trattare. E poi ci sono per esempio casi come Manolo Valdés, artista spagnolo, che in una sua opera Due immagini, doppia immagine su fondo grigio, usava tela ruvida sopra la quale aveva applicato olio e cera. Insomma, non è facile restaurare questo tipo di materiali. Per non parlare poi dello svizzero Dieter Roth, che autore di un'opera intitolata Mare di cioccolato, che risale al 1970, quindi è già molto vecchia, parliamo del secolo scorso, e che forma parte di una collezione del museo Macba. E qua racconta Isabella Fott che è fatto di cioccolatini

ed ecco che l'arte si accompagna spesso a certificazioni, addirittura proprio a indicazioni d'uso e di modalità d'uso per il futuro. E allora ecco che un artista, purtroppo prematuramente scomparso, come Félix González Torres, che realizzava degli omaggi alle persone attraverso dei rituali, non dei monumenti, sì. Quindi non so, il peso di un mare di caramelle che corrisponde al peso della persona omaggiata, che il pubblico è invitato a consumare, quindi una sorta di eucaristia laica, a prender parte, partecipare al corpo di questa persona. Sì, Félix González Torres, ci resta nell'estate di Félix González Torres, quindi tutte le indicazioni sull'utilizzo delle sue opere, il modo in cui riattivare queste opere. Ecco, un po', abbiamo parlato di cioccolatini, adesso ci sono anche le caramelle, insomma, quindi, quelle non sono invase da coleotteri. Però. Sì, ma in alcuni casi la cosa interessante è che Félix González Torres dava la possibilità o di sostituire le caramelle mancanti con nuove caramelle, oppure in alcuni casi di lasciare appunto il consumarsi dello spazio fisico dell'opera, quindi addirittura si trattava di conservare paradossalmente il vuoto, certo. Cioè l'opera è data proprio nella sua svanizione, nella sua in realtà attivazione da parte del gesto del pubblico che realizza l'opera e la fa diventare quasi spirituale, immateriale. Esatto. Bene, noi ringraziamo Gianfranco Maraniello, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Il nostro Francesco Alberoni, teorico dell'innamoramento come movimento rivoluzionario a due, sarà contento perché l'autorevole rivista americana Foreign Policy dedica un editoriale ad un curioso parallelo tra le leggi che regolano le relazioni tra le nazioni, tra i governi, e quelle che regolano i rapporti tra amanti, tra marito e moglie o tra fidanzati. Dice che le regole sono un po' più o meno molto simili, perché anzitutto ogni partnership amorosa è essenzialmente un'alleanza, e che istituzionalizzarla la rende più efficiente e durevole. Ma soprattutto che i sistemi più stabili sono quelli bipolari. Quando si cerca di creare così dei rapporti multipolari, la stabilità dell'alleanza ne risente. Ecco, anche del resto anche il ministro degli esteri italiano recentemente ha fatto un comunicato ufficiale per rendere nota la rottura del suo fidanzamento, come se fosse un trattato internazionale. E adesso ci spostiamo in Israele, dove alla Fiera Internazionale del Libro di Gerusalemme, giunta alla sua 24esima edizione, il premio Gerusalemme per la libertà dell'individuo nella società è andato a uno scrittore giapponese, il bestsellerista Murakami Haruki. E Murakami, nell'accettare il premio, ha fatto un discorso molto interessante, perché ha paragonato i romanzieri ai politici. Ha detto: sono qui come un romanziere, quindi come un produttore di menzogne. Dice: non soltanto i romanzieri raccontano bugie, anche i politici lo fanno, ma la differenza è che i politici vengono di solito condannati per le loro bugie, invece noi siamo lodati per questo, e più grande è la bugia e più lodi riceviamo. In realtà Murakami non lo dice, ma la vera differenza rispetto ai politici è che i romanzieri non dicono, dopo aver detto una cosa, di essere stati fraintesi, e non chiedono soprattutto il carcere per i giornalisti che pubblicano la verità. La finestra sul cortile. Rip it up and start again. Stracciatelo e ricominciamo da capo. È il titolo piuttosto così dirompente di un articolo di Ryan Gilbey, il critico cinematografico del New Statesman inglese, a proposito degli Academy Awards di Hollywood, cioè dei celebri Oscar, che appunto tra poche ore verranno consegnati a Los Angeles. Secondo Ryan Gilbey, questa cerimonia così ambita dagli uomini di cinema di tutto il mondo avrebbe bisogno di una riforma radicale, perché a giudicare dai risultati di questi 30 anni non funziona più, insomma non funziona come una macchina che premia la qualità artistica, ma semplicemente come così una specie di spettacolo che viene gestito da capricciosi accademici hollywoodiani che finiscono poi per premiare soltanto quello che piace a loro, e spesso disprezzando, così scrive Ryan Gilbey, la vera qualità e il vero merito degli autori. Secondo Gilbey, negli ultimi 30 anni soltanto due film premiati come migliore film dell'anno meritavano veramente il premio, e sono Il silenzio degli innocenti nel 91 e Unforgiven nel 92. Per il resto, dice, si può andare indietro negli anni 70 con Annie Hall, i primi due film del Padrino, o addirittura agli anni 60 con Lawrence d'Arabia, per trovare una coincidenza, scrive Gilbey, tra genio, longevità di un titolo e Oscar e vittoria della statuetta. Gilbey propone addirittura una serie di interventi di riforma. Per esempio, perché dice tutto questo accumulo di premi su un unico titolo? Secondo lui bisognerebbe limitare al massimo a 5 premi per ogni film. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro ospite, Daniele Lucchetti, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Ciao, ciao, ciao, eccomi qua. Daniele Lucchetti, regista, autore e anche attore cinematografico, lo ricordiamo per alcuni dei suoi film tipo Domani accadrà, Il portaborse, Mio fratello è figlio unico. Ecco, Lucchetti, lei forse non è ancora andato, le auguriamo di andarci presto a Hollywood, ma lei condivide un giudizio così drastico sul bilancio della cerimonia degli Oscar negli ultimi 30 anni? Ma io sono, diciamo, almeno 15 anni o 20 anni che non faccio più caso agli Oscar. Come evento ha cessato di essere interessante per me una ventina d'anni fa, quando ero un giovane appassionato di cinema, e mi sembrava che in qualche maniera la cerimonia dell'Oscar, non la cerimonia in sé, ma i premi che venivano dati fossero premi interessanti. E adesso mi sono domandato, siccome sapevo che avremmo fatto questa chiacchierata, mi sono domandato, ma perché non me ne importa più niente? Ecco, e quello che ho pensato che non è colpa degli Oscar, ma è colpa del cinema che viene fatto. Sono almeno una ventina d'anni, e qui i tempi tornano, che gli Stati Uniti non fanno più cinema per adulti, cioè che non fanno più un cinema, diciamo, d'arte. Tant'è vero che questi film esclusi, secondo l'articolo, come dire, i film d'arte esclusi, non ne sono stati realizzati negli Stati Uniti, semplicemente perché il cinema americano di questi ultimi vent'anni è stato un cinema per adolescenti, non è più un cinema che si rivolge al pubblico adulto con delle dinamiche psicologiche, politiche, esistenziali adulte, ma è un cinema per adolescenti che tutto sommato, se quello che viene fatto è anche quello che viene premiato, cioè è giusto che vengano dati 12 Oscar o quanti erano al Signore degli Anelli o a Titanic, perché quello, il cinema americano è quello, e quello è quello che fa fatturato nel cinema americano, e non c'è un cinema americano di qualità che viene tenuto nascosto, semplicemente non viene realizzato. Ecco, ma Cannes non ha altri difetti, viceversa, per fare un esempio invece più vicino a noi. Cannes ha difetti, diciamo, un po' sciovinisti, vicino, no? È molto più vicino all'idea di cinema d'autore, di cinema d'arte, quello sì, quello lo fa. Insomma, il Signore degli Anelli non va in concorso a Cannes, mentre l'Oscar viene vinto dal Signore degli Anelli, quindi certo. E da una parte neanche si avvicina, dall'altra parte. Poi sì, poi Cannes sciovinista, dipende, erano tanti anni che non vincevano film francesi a Cannes. Ecco, ma quali sono i registi stranieri che lei ammira di più? Ma io per esempio amo molto il cinema danese in questi anni, penso che per esempio Lars von Trier, tutta la sua scuola, Susan Bier sono i più interessanti, ma anche i registi più vitali che abbiamo in Europa sono spesso in Inghilterra, penso a Ken Loach, penso a Mike Leigh, penso E anche ogni tanto qualcosina viene dalla Francia, per esempio penso a Sulle mie labbra, Tutti i battiti del mio cuore, sono film importanti, da un regista che insomma ha fatto 2 o 3 film in questi ultimi anni molto interessanti. Ecco, lei come spiega la bocciatura di Gomorra? Immagino già la sua risposta, perché è un film d'arte e non viene accettato. Però non è propriamente un film d'arte, è un film documentario. Io ho un'idea molto precisa su Gomorra. E il cinema, diciamo, di genere... Certo. Anche in questo caso è un cinema, come l'hanno definito su Screen International, un gangster movie realistico, perché è un gangster movie realistico in fondo, Gomorra, lo fanno in giro per il mondo da tanti anni. Cioè noi siamo arrivati un po' per ultimi, anche io lo trovo un film straordinario, un film d'arte in tutti i sensi, e forse uno dei più bei film dell'ultimo decennio italiano. Credo che visto dall'estero risulti forse un pochino meno originale di quello che è sembrato a noi. Pensa a certi film russi degli anni 80, degli anni 90, o anche certi film asiatici, o anche certi film americani. Cioè, okay. Il gangster movie di Scorsese... Sì, in qualche maniera precorrevano questa formula. Ecco, noi ringraziamo Daniele Lucchetti e a presto. Grazie, arrivederci. E ora ci spostiamo in Polonia, sulle colonne della Gazeta Wyborcza, lo scrittore polacco Stefan Czwin parla di un ritrovamento casuale che è stato fatto recentemente a Malbork, l'antica Marienburg in Polonia, dove nel corso di lavori di costruzione stradale sono venuti alla luce i resti di 2000 soldati tedeschi uccisi negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente le autorità hanno cercato di mettere a tacere la cosa e di ricoprire questa fossa comune in qualche maniera, di non dargli troppo risalto, mentre invece Stefan Czwin dice bisogna immediatamente cedere il sito agli archeologi, agli storici e agli antropologi e poi solo successivamente seppellire le ossa, ma dare ad esse una sepoltura individuale con un nome e un cognome. Dice: dopo le stragi nei Balcani, la gente cerca di identificare i resti delle persone sepolte. Certo, identificare i resti e dare sepolture individuali a distanza di 70 anni è molto difficile. E adesso voliamo in Estremo Oriente e sulle pagine dell'Herald Tribune leggiamo un articolo di Keith Bratcher da cui si dice che ci sono delle prove di disgelo tra i governi delle due Cine, della Cina popolare e della Cina nazionalista di Taiwan. E questo disgelo però per ora riguarda soltanto l'arte, perché il museo di Pechino ha accettato di prestare delle opere al museo di Taipei per una grande mostra l'autunno prossimo, con delle opere, soprattutto dipinti dell'imperatore Zhongshen del Settecento e delle sue concubine. Solo che già i due governi litigano su quante opere verranno prestate, perché naturalmente il museo di Taipei dice che saranno almeno 29, mentre il museo cinese si tiene più sulle generali, dice che ancora non è stato specificato il numero. E poi soprattutto rimane irrisolta una questione di fondo, e la Cina rivorrebbe indietro tutte le opere che a suo tempo erano state trafugate da Chiang Kai-shek e dai suoi seguaci dopo che Mao aveva preso il potere. Ma i governanti di Taipei fanno orecchie da mercante perché non si fidano dei comunisti. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, Pietro Lacorte in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.